Supponiamo che si possa fare arte anche in cucina, è una cosa che sostengono in tanti, e cioè che si possa intervenire su un linguaggio preesistente, quello delle sebadas, che come abbiamo visto è un linguaggio che parla in sardo, nel senso che il modo di mettere assieme le parti che formano una sebada è un modo che si adotta solo in Sardegna. Ecco, supponiamo che si possa fare arte anche in cucina, e che si possa intervenire su un linguaggio preesistente, e supponiamo di apportare qualche innovazione alle regole che governano la confezione delle sebadas, oppure evitando proprio di rispettarle le regole. Supponiamo, insomma, di comportarci con le sebadas come gli artisti si comportano nella confezione delle loro opere, apportando innovazione alle regole oppure derogando da esse.